Santissima, dateci aiuto. Tutti in ginocchio cercamo aiuto, Maria Santissima, dubiti l'uto. E ti circola saluti, vieni Madonna, vieni m'aiuta. Oi Madonna, dubiti l'uto, tu si pagiuna di la salute. Ogni chiuno ti cerca aiuto, viva Maria, dubiti l'uto. Oi fedeli, caia dall'umonte, iata ciuva sta vergine bella. Con il suo santo bambinello, viva Maria, quanto si bella. A chi vi prega ci date aiuto, Madonna bella, dubiti l'uto. Gioia che gli ha di tubare. E noi veniamo a lupiti rutu, picci cacciari su bello puto. Lupiti rutu, tu sei regina, e ogni giorno a ti avvenimo. In la curuna cante sta portati, le vostre grazie sono infinite. Su questo manto noi ne coprimo, du malo tempo noi ne salvamo. E ti cerco la salute, vieni Madonna, vieni m'aiuta. Tutti in ginocchio brigamo a Dio, fanni sta buonima